Attenzione, quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti privi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo. Emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. We come and rapper, we come and rapper. We come and rapper every time. Hey, hey, hey, hey. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We come and rapper. Capitale, è giunta al fine il dì della riscossa, quando alzeremo sopra il Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti. La guardia rossa suona la donata, tutti presenti, vent'anni e più di tirannia fascista, il carcere il confine di Ebbene, eccoci qua. Dunque, ciao a tutte e a tutti, compagni e compagne, bentornati, yes. E bentornate a Io te l'avevo detto, Yesaya, nuova stagione, mai così compatti, mai così nuovi, freschi, esatto, come dire. Un'apertura per niente, diciamo, esatto, oggi era doveroso. Oggi era doveroso, ce lo siamo, vuoi dire, dedicato e abbiamo voluto. L'avevamo anche detto, insomma, che a ottobre si sarebbe fatta la rivoluzione, esatto. Voi avete partecipato al mega Cucci Verbone per farla, detto fatto, ci stiamo cominciando a riorganizzare. Però barricate, piombo su piombo, qualora dovesse essere necessario. Sì, sempre. Bene. Dunque, bentornati. Quindi bentornati, bentornati. Io te l'avevo detto. Ricominciamo con. Io metterei la classica, il classico sottofondo della trasmissione. Ma no? Sì, potresti lasciare pure i comunisti della capitale come sottofondo. Male, non dispiacerebbe, no. Però, insomma, come state, cara ascoltatrice e cari ascoltatori di Io te l'avevo detto, insomma, tu, Radio Onda Rossa. Ma quanto tempo? Quante 87, cose? 9, diteci. Diteci! È stato tutto questo tempo centinaia di notizie si sono accavallate, esatto, direi, noi abbiamo praticamente l'estate, per noi ci è passata così come via, un fulmine, non l'abbiamo neanche vista, sì, abbiamo chiuso gli occhi, li abbiamo riaperti ed era l'estate, di nuovo autunno. Era finita, esatto, noi esatto, non ce noi ce siamo abbiamo chiuso, ci siamo concessi comunque, esatto, un momento di fuori mainstream, ma no, tu sei ricco e te lo sei potuto concedere, noi poveracci non ci siamo potuti concedere nessun momento di svago, niente. No, anche perché poi comunque categoricamente ogni anno appena tutti quanti arriviamo finiti, sbragati a agosto e proviamo un attimo a riposarci, succedono le cose peggiori, tant'è insomma che abbiamo pensato di improntare tutta quanta la puntata di oggi, di domenica 10 ottobre, ma tutta quanta incentrata su tutte quante le cagate pazzesche che sono successe in questi mesi, esatto. Le notizie assurde, diciamo, che hanno cavalcato questo momento in cui noi non ci siamo stati, esatto, sarebbe... ma siccome non c'eravamo e se c'eravamo dormivamo, non abbiamo capito niente, ma sempre con occhio successo. Aperto, esatto, ci sarebbe da parlare seriamente di un sacco di cose, veramente tantissime. Aiuto! Ne abbiamo fatto giusto punto, una cernita. No, esatto, eliminando tutte quante quelle serie e lasciandoci invece quelle proprio, esatto, diciamo, di cultura generale, diciamo, esatto, no? Esatto. Di basso a basso. Bassa lega, proprio bassa. E siccome noi voi e Crofici. Esatto, ci è mancato pure lui, tanto padre eminenza, vossignoria. Siccome noi ci piace appunto soffrire, perché a noi e siamo anche, come dire, in questa estate torrida, noi abbiamo anche sviluppato una nuova corrente di pensiero. Sì, esatto, esatto. Vi parleremo con più calma, insomma, magari nelle puntate avanti. Esatto, avremo modo poi di affrontare. Che anche l'anno scorso, insomma, abbiamo avuto. Sì, modo. Di cui siamo noi in realtà i fondatori e anche i promotori per le prossime. E per ora 11 il nostro colpismo. Che detta così può sembrare una cosa, invece è proprio una cazzata. A tratti potrebbe sembrarlo, però magari se poi uno ci ragiona, è necessario in qualsiasi struttura di movimento un parafulmine. Si pensa a nuove formule di futuro. Esatto, noi siamo il parafulmine di tutto e tutti. È colpa nostra, vuol dire. Sempre. Se colpa succede nostra. Qualcosa, di chi è la colpa? Esatto. Io te l'avevo detto. Esatto, è colpa nostra. E così si lancia una nuova corrente, nostro colpismo. Bello, bello, va bene. Comunque. Quante molto... idee che ci abbiamo qua. Quante idee vi attoccheranno in questo qualcosa... caldo autunno. No, veramente, ce ne sono state veramente troppe. Davvero, È stato difficile sceglierle, queste poche che affronteremo oggi. Vediamo se riusciremo anche a fare una cosa a un certo punto anche un po' più seria rispetto al nostro solito. Però no, diciamo insomma che anche noi, come vi avevo detto, come avete visto, ascoltatori e ascoltatrici, ce la siamo presa un po' più con calma per rientrare. Anche questa puntata, la puntata sarà molto musicale. Easy, sì, avremo molte. Un momento per incontrarci, dateci modo di ricordarci come si fa, perché effettivamente noi abbiamo non l'abbiamo mai saputo fare, ci vantiamo di questo, non sappiamo farlo, ci proviamo con tutto il cuore. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti e tutte quelle che hanno sostenuto la radio con il 30 per 1000 che si è chiuso. Naturalmente grazie, vi lanciamo come sempre un applauso per aver sostenuto la radio, ma non è finita qua no, sempre. Infatti Grazie, ma mandateci altri soldi, perché comunque è ricominciata la lotta alla sopravvivenza. Tra ben 6 giorni non abbiamo più soldi, quindi tra bollette e vari impicci ci serve ancora una volta il vostro sostegno, quindi ci sono diversi modi. Potete passare qui in radio per lasciare una bustina, come facciamo noi delle trasmissioni ogni mese. Non solo noi, assolutamente, diciamo la verità. Potete intestare al laboratorio culturale, ma tutti quanti questi dati li potete trovare sul cooperativa sito cooperativa culturale 2001. E questo qui è un altro modo per sostenere la radio. E in generale, comunque, se volete potete scriverci a ondarossa@ondarossa.info per capire come sostenere la radio. Tra poco già stiamo lavorando a scarcerando, tra poco riuscirà a scarcerando, quindi un altro modo sarà quello di acquistare l'agenda e ecco, diciamo, allo stesso tempo sostenere una causa molto importante che la radio porta avanti da un sacco di anni. Quindi mi raccomando, continuiamo a sostenere la radio e venire alle iniziative, soprattutto non dimentichiamo che è sempre enorme, perché venerdì prossimo c'è anche un'iniziativa, il 16, esatto, e quello che volevo dire, appunto, ricollegato a questo, non dimentichiamo che la radio si sostiene non solo economicamente, si sostiene anche e soprattutto partecipando alla vita viva della radio. Quindi insomma, tutti i lunedì noi facciamo assemblea, chiunque volesse venire a chiacchierare con noi può affacciarsi, e poi ci sono tanti eventi, o meglio si sta tentando di ricominciare con tanti eventi di cui la radio è protagonista, dove potete appunto venire e incontrarci, parliamo, discutiamo e balliamo anche laddove si comunque può. Banda alle ciance, segniamoci un pezzo, ciancio le bande, esatto, cominciamo con pezzone, con un pezzo, sì, che ci tenevamo un sacco a passare, insomma, diciamo che doveroso, insomma, quindi se lo merita Lee Scratch Perry, e quindi un abbraccio dai, te l'avevo detto, l'immortale ai Reggae Lovers. Yes, sir. Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre Io Te L'Avevo Detto. Yes, bentornati, bentornati, eccoci qua. Siamo tornati oggi e quindi direttamente da Via dei Volsci, in una, sotto una città, come dire, sotto un cielo nuvoloso. Sì, un ottobre sì, è però diventato subito abbastanza freddo, eh? Sì, però le nostre rosse bandiere sventolano forti al vento. Qua fuori abbiamo appena siamo arrivati, abbiamo appeso le nostre bandiere a rinfrescare bandiere il cuore, esatto, come ogni due domeniche del mese. Esatto. Esatto, esatto, perché noi qua quando arriviamo appendiamo le bandiere, quindi quando qualcuno passa sotto Via dei Volsci e vede le bandiere rosse appese, molto probabilmente sei raffiata. Se, stiamo qua, siamo qua, siamo qua. Quindi se volete ci suonate, salite, ci lasciate la sottoscrizione. Pure se non ce la volete lasciare non fa niente. Salite, ci conosciamo, è bello, tutto bellissimo. Andiamo avanti molto rapidamente, sì, perché oggi ci siamo prefissi l'obiettivo di essere rapidi e concisi. Small. Sì, sì, molto smart. Smart. Molto smart. E infatti adesso vi vogliamo parlare proprio ricollegandoci all'argomento argomento di cui sopra. Vogliamo ricollegarci alla questione del finanziamento della radio, perché certo, assolutamente, c'è qualcuno che potrebbe aver frainteso le parole di Clemson. Sì, raga, riprendiamo anche il tema della giornata, cioè le notizie assurde. Avete frainteso, raga, cioè con calma. La radio ha bisogno di voi. E va bene. Non ci piove. Ha bisogno dei finanziamenti, ha bisogno del sostegno. Però, insomma, rubai, gratta e vinci alle vecchiette, no, non si fa, raga. Incredibile. Quest'estate siamo rimasti scioccati dalla notizia che ha tenuto banco, insomma, per tutta l'estate. Questa del famoso furto del gratta e vinci milionario. Da parte del tabaccaio. Da parte del tabaccaio, ai danni della povera signora, esatto, vecchina napoletana di Mater Dei, che si è vista scippare, questo proprio letteralmente dalle mani, questo biglietto milionario. Questa cosa a noi ci ha colpito, mezzo milionario, esatto, ci ha colpito. Simpatico ragazzo, cioè, è simpa. Vabbè, dai. Poi questa cosa ci ha colpito. Però no, sai perché? Perché dopo ne riparliamo del mezzo milione. Poi dopo abbiamo scoperto che questo mezzo milione, in realtà, il tabacchino lo avrebbe voluto devolvere alla radio. Ma pensate, raga, nel senso, c'è proprio un'intercettazione. Non lo so se ve la possiamo riproporre oggi, perché è delicata questa cosa. La regia ci fanno segno che forse è meglio di no. No, è una cosa delicata, e bisognerebbe capire come mai questo ha fatto sta dichiarazione, perché noi ci dissociamo, insomma, da questo gesto insano. Non si fa. Eh beh, ma no, così, ma non no, ma fa, che, ma poi con vorrei picchietta. Alle signore no. No, ma la... non si fa. Come abbiamo visto, questa è stata una delle cose che ha provocato più scalpore, diciamo, sui vari social, tra le persone che ormai, diciamo, che si chiacchiera. A parte gli scherzi, esatto. Nel senso, è una cosa che ha fatto trend, insomma, hanno parlato dei giornali, hanno parlato un po' tutte quante, ci si è scherzato, svariato su diverse persone, hanno fatto gli scemi, ma però è andato a finire bene, c'è lieto fine, c'è lieto fine, sì, nel senso, dipende... che la signora ha incassato regolarmente la vincita, come insomma era giusto che fosse. C'è stato anche il pentimento, questa è proprio una storia tutta italiana, no? Tutta italiana. C'è anche il pentimento in carcere del tabaccaio. Cioè questa me la so persa. Il tabaccaio che all'inizio ha cercato di passare da vittima, di no. I soldi erano per la radio. No, i soldi erano. No, a parte gli scherzi. Questo ha cercato di passare per vittima. Ha detto: no, guardate, che siccome io sono divorziato da mia moglie, che è la proprietaria del tabaccaio, eccetera, eccetera, ho chiesto a questa signora di comprarmi il biglietto. Però questa signora, una volta che ha visto che c'era mezzo milione di euro, gli vogliamo lasciare un applauso. Quindi si battono la stessa cosa. Poi ha cambiato di nuovo versione. Ha detto: si battono la stessa cosa, cioè mio, no? È mio. Esatto, poi che è successo? Che è messo alle strette, perché lui è scappato. Okay. È scappato, ha preso questo biglietto, ha messo il biglietto in una banca di Latina ed è scappato per le Canarie, voleva andare a Fuerteventura. Però l'hanno bevuto prima e hanno detto: cazzo, vai. Hai scelto comunque ma bene. Ma che ti frega? Pensa, esatto, alla sorpresa. Esatto. È quello che ha detto lui. Sì, questa è la dichiarazione. Esatto. Che però purtroppo non ha funzionato. Però a me. Ha fatto sto stronzo. Ha chiesto alla signora di. Cioè, gli ha detto: io te lo ridò il biglietto solo se mi dai metà della vincita. Ah no? Capito? È furbo? Figo. Lui pensa di essere furbo. Poi se lo so bevuto. In galera si è pentito. L'avvocato ha detto: guardate, si è pentito. È molto dispiaciuto. E tra l'altro, anche i figli stanno subendo, insomma. Esatto. I figli stanno subendo questa cosa, non è giusto. No, assolutamente, ma io quello che voglio dire, ok, il caso fa abbastanza ride, nel senso, ma... no, però insomma ci sono state cose anche abbastanza più toccanti, se vogliamo, no? Che invece sono state trattate volutamente con riservatezza da chi di dovere. Mi riferisco, per dire, a una cosa che è strettamente collegata, no, al fatto che uno si ruba dei soldi perché evidentemente c'ha bisogno, ossia è l'aumento della bolletta, no? Cioè, da una parte, zan, altra notiziona. Ma questo è un complottista. Un complottista. L'aumento delle bollette. Ma allora è vero, non è una fake news? Allora, sembra una fake news, però insomma, cioè, è stata trattata un po' come, come una fake news. Perché in realtà c'è qualche problema su questa questione. C'è più di qualche problema. Non è stata proprio chiara questa cosa. Insomma. Cioè, non è proprio chiara la questione. Perché. Comunque, c'è stata la dichiarazione da parte dei gestori, insomma, da parte dei, ecco, ecco. A parte che non sono aumentate. Dell'aumento delle bollette. Addirittura si dice fino al 40%. Ecco, attenzione, attenzione, attenzione quando parliamo di questi numeri, perché è vero, l'aumento c'è stato. Spiegone. No, no, figuriamoci, no, spiegone. Solo che la notizia, come sappiamo, tutti i media hanno un gran bisogno di fare lo scoop. Lo scoop. No? E quindi fanno un titolone, aumento del 40%. È vero, c'è la componente energia della bolletta che aumenta del 40%. Questo aumento del 40% della componente energia fa sì che tutto l'ammontare della bolletta lieviti di un 15-20%, che sì, è un aumento. Ma diciamo anche un po' di meno, intorno al 13. Ma tra il 15 e il 18. E soprattutto non per tutti quanti, ci sono delle fasce che restano al di fuori di queste. A questo punto però vogliamo dire che comunque un aumento di questo tipo è sproporzionato e ingiustificato, se non in un'ottica di consumo delle risorse fossili, di cui si parla ampiamente anche da questa radio da tantissimo, certo, tempo, e ci ritroviamo oggi a pagare il conto. Tant'è vero che in una notte, ad esempio, anche il metano per le auto è lievitato del 100% anche in alcuni distributori, è arrivato a 2 euro. Sì, si pensa che arriverà a breve a 2 euro. No, in alcuni posti sta già a 2 euro, anche un poco più. Quindi la questione è molto grave, e questo aumento ovviamente poi va a ricadere tutto sulle spalle dei contribuenti comuni. Sì, questo infatti va anche affiancato a un altro problema, che comunque è quello che stiamo vivendo, ossia che c'è più richiesta di quanta produzione c'è, nel senso, siamo anche la Francia, che comunque è tra le prime d'Europa che dispensa energia dal nucleare a tutti quanti, comunque anche i francesi ci hanno avuto un rincaro sulla bolletta. Il meccanismo è abbastanza complesso e variegato, però va da sé comunque che una delle motivazioni per cui si fanno questi discorsi, come se ne faranno tanti altri nei prossimi periodi, tendenti a questa new green economy, che insomma da questi microfoni è stata anche già affrontata, insomma, porta verso l'ennesimo cruccio, se vogliamo, no? Nel senso, sì, come ogni forma di capitalismo. Dobbiamo andare, dobbiamo fare dei passi in avanti per stare appresso a della roba che va bene sulle spalle nostre, cioè, nel senso, alla fine sempre noi ci andiamo, siamo quelli che ci andiamo a rimettere, quindi, e paghiamo gli aumenti in bolletta. E poi è simpatia, ma anche, come dicevi tu, anche il carburante, ma come tante altre cose. Vabbè, comunque questa cosa era simpatica, perché si è messa in rapporto l'una con l'altra, perlomeno ce l'aveva. Sì, no, diciamo che il motivo per cui questa notizia ha avuto grossa risonanza, oltre al fatto della percentuale sparata, insomma, così come un mostro, giustamente, quale esso è, perché effettivamente è un aumento enorme della componente energia, questa notizia è risaltata perché è stata messa soprattutto sui social in contrapposizione con la questione del Green Pass, no? E quindi si diceva nessuno si arrabbia per l'aumento del 40% delle bollette, mentre invece ci si arrabbia per il Green Pass. Quindi, insomma, di per sé questa notizia è risaltata, ha avuto grosso risalto proprio per questa contrapposizione. Ma che poi, se vogliamo anche andare, è assurdo. È assurdo, ma è ancora di più se vogliamo andare a mettere di più diciamo il pelo nell'uovo, andare a cercarlo. Tutti quanti questi grandi soldi che arriveranno per stare appresso a questi cambiamenti che dobbiamo fare, che ci vengono appunto presentati in questa maniera, andranno gestiti dalle grandi imprese comunque, cioè, quindi, nel senso, noi paghiamo soldi per stare al passo con della roba, mentre arrivano dei soldi che sono progettati per essere investiti in quella roba là. È una cosa terribile, nel senso, è l'apoteosi del capitalismo, non so come dire. Sì, infatti, appunto, come dicevo prima, trattasi comunque di una nuova versione del capitalismo, che è sempre la stessa bestia, è sempre secolare, se stesso che si adatta. E questo l'avevamo un po' detto, comunque, che sarebbe stato bello e interessante vedere nei prossimi tempi, insomma, come il capitalismo sta al passo con questo marasma che sta per ma succedere. Quello che attendiamo appunto i finanziamenti che arriveranno, perché stanno arrivando un sacco di soldi, tra poco arriveranno, certo, e verranno spesi. Questi verranno, no, ma spesi. Quello che stentiamo a capire è come si possa immaginare che comunque una nuova variante del capitalismo possa essere positiva rispetto a quello che è sempre stato il capitale, insomma. Vabbè, noi sappiamo benissimo, bestia, insomma, che questo, no, appunto, non sarà. Non so come si possa pensare che, siccome c'è il termine green dopo la parola capitalismo, allora possa essere meglio. Cioè, io sinceramente non mi spiego questa speranza racchiusa dentro a sto sogno della New Economy green, capito? Perché stiamo a parlare comunque della stessa bestia che si morde la coda e che si ricicla e torna a essere sempre lo stesso la stessa solfa. Quindi non so, di che stiamo a parlare? Di che parliamo? D'altronde stiamo qui noi a perdere tempo con. Io te l'avevo detto che, diciamo, come sentite, provo a fare un po' di ironia sulle cose strambe che ci capitano intorno. Però diteci pure la vostra, esatto. 06 491 750, chiamateci e diceteci guardate che è successa pure sta cosa quest'estate, che ne pensate voi di quest'altra roba qui, perché può essere, anzi è sicuro che. Beh, noi quindi torniamo con la rubrica hot di Radio Onda Rossa. Vai Gioco Mazzo con l'hot. Vai 06 491 750, la rubrica hot di Radio Onda Rossa, hotline. Voi ci chiamate, ci date qualche spiccio che serve per sostenere radio, sempre. E Giacomo Mazzo vi manda i bacini, vi fa tutto quanto quello che volete. L'abbiamo già detto, Giacomo, in altre puntate se siamo allargati un po' troppo. Comunque dicevamo di cose che ci hanno fatto un po' rabbrividire, ne sono successe svariate negli ultimi tempi. Noi abbiamo scelto queste così, tanto per però nell'ultimo mese ci si sono messi giù duri, per ridarci un po' il tono iniziale, su questa cosa qua fa abbastanza ridere che comunque l'altro giorno, chiacchierando con Migrazzi, mi diceva che 21 progetti su 21 sono stati respinti in Sardegna su questa cosa dell'aggiornamento dei soldi spesi per PNRR. Che quindi, strano, bellissimo. Però allo stesso tempo abbiamo gente che invece propone modelli di sviluppo etico e soprattutto solidale con chi sta in mezzo alla merda. Poi questa però magari è una sorpresa che vi lasciamo. Se c'è sta Migrazzi in mezzo più è chiaro tardi, che bocciano, scusa se c'è ci andiamo a sentire un altro pezzo e a tra poco, sempre da, io te l'avevo detto, Caparezza diventerò qualcuno. Altrezza special dedication, special thanks. Non c'erano TV come di Nembo Kid, né radioattive come Nubia Chernobyl. C'era l'uomo qualunque, sostenuto dal fronte dell'uomo qualunque. Nella schiena dei partiti affondo le unghie. Io non sono di destra né di sinistra, sono un uomo qualunque. E lo Stato è demagogo, nel sistema bipolare non mi ci ritrovo. Oh, ferma tutto, devo aver avuto un herpes, dato che questo sfogo non mi è nuovo. Vivo decenni dopo nello stesso clima che su questo fuoco getta più benzina. Ma non c'è più l'uomo qualunque, tutti sono qualcuno, tutti sono in vetrina. Qualcuno è il primo partito di questo paese. Grazie e arrivederci. Bene, adesso Mister e Miss faranno del Parlamento la diazza del Blitz. Non distingo né il foglio dal manifesto, del resto io non distingo Libero da Gin Fit. La democrazia fa la fine del VIP che ritrova KP sull'uscio dell'hotel Ritz. E siamo tutti nelle mani di chi? Di questi che per diventare qualcuno cambiano nick? Sì, di fronte dell'uomo qualcuno a voti al cubo. Mamma che dolore al culo, lo appuro. Se questo è uno scherzo manca di sense of humor. Che mal rovescio stiamo seppellendo nell'endemol generation. Devo aspettare di perdere il mio diritto di voto per guadagnare il diritto alla nomination? Sempre Radio Onda Rossa, sempre 87.9 e continuiamo con la trasmissione. Allora eccoci qua di nuovo tornati a Io te l'avevo detto. Sì, pare di sì, pare in, di sì. In questo oggi insomma che si fanno un po' di, come dire, si fa una visione di quelle notizie che a noi sono sembrate un po' più assurde in questo momento in cui siamo mancati. Che vanno proprio in contrapposizione con altre notizie proprio molto più serie. Esatto, diciamo una delle notizie, forse la notizia che più ci ha segnato insomma nell'ultimo periodo è quella appunto che conoscerete tutte e tutti, della sentenza che ha colpito Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, insomma, che la sentenza di 13 anni di condanna che gli è stata inflitta. E oggi ci chiedevamo prima, infatti, com'è possibile che fino all'altro ieri si chiudeva gli occhi su tantissima roba lasciata in mano alle mafie, soprattutto anche in termini di accoglienza. E infatti oggi noi vogliamo farvi anche, diciamo, una piccola sorpresa, insomma, vogliamo parlare direttamente col compagno Mimmo Lucano. Esatto, siamo forse riusciti a raggiungerlo. Esatto, telefonicamente lo stiamo disturbando perché Mimmo insomma è di ritorno dalla marcia della pace di Assisi. No, non mi state disturbando. Ciao Mimmo, buonasera. Mimmo, buonasera. Sono contento di parlare con i compagni. Meno male. Grande. Anche noi siamo un sacco contenti. Grande. Perfetto. Guarda, noi ti teniamo pochissimo. Volevamo chiederti un po' di cose. Intanto ti chiamavamo per esprimerti tutta la solidarietà nostra e della radio, insomma, di Radio Onda Rossa, per quello che è successo. E insomma, non finiremo mai di stupirci e di meravigliarci dell'ipocrisia della giustizia borghese, insomma, in questo stato. Però insomma le domande che vogliamo farti, una delle due è questa: come si andrà avanti dopo la sentenza? Cosa si farà? Che succederà di qui a breve, insomma? Allora, ti posso suddividere la risposta, come devo dire, in due come due fasi, no? Una è quella formale, di attendere le motivazioni del collegio, del giudice che mi ha condannato, anche gli altri operatori, tutti quelli che erano, diciamo, imputati, per poi avere il tempo di fare di ricorrere in appello. Poi la corte d'appello avrà i suoi tempi, quindi è tecnicamente così, e questa è una prima parte legata ad una, come devo dire, impostazione burocratica. Invece io, la parte che per me è più interessante, da subito, diciamo, da quando ho ascoltato la sentenza in modo diretto, che ero presente quella mattina al tribunale, dove ero andato con la speranza di essere assolto totalmente e un giorno anche di poter, come devo dire, fare luce su una storia piena di ombre, dove la prefettura, la procura, hanno avuto delle interferenze, hanno agito alcune volte per motivazioni politiche. Io ovviamente mi chiamo Domenico Lucano, ti sto dicendo quello che è il mio pensiero come persona fortemente interessata a tutta la vicenda, non voglio nemmeno, come devo dire, alcune volte apparire che sono di parte inevitabilmente, ma comunque quando uno mi fa un'intervista, una domanda, io ti dico le cose che penso, diciamo, no? In maniera convinta. Non abbiamo problemi a essere di parte, mio Okay, ok, no, io non voglio essere di parte, voglio l'obiettività anche su me stesso. L'ho detto dal primo istante, ognuno può sbagliare, ognuno può incorrere in reati, no, non voglio raccomandazioni, non voglio pietà, non voglio nessuna cosa. Cioè io mi sto battendo per un ideale e sono convinto che mi stanno facendo pagare per questo motivo. E anche questo non deve essere interpretata come voglio io, mo ti spiego pure perché. Allora, ti stavo dicendo che la cosa invece che ho avvertito dal primo, l'esigenza di non essere sconfitto a un punto di vista del giudizio che lo dà il popolo, che lo dà diciamo l'opinione pubblica e che percepisce, che ha una come devo dire, perché quando si comincia a fare la condanna si dice in nome del popolo italiano. E il popolo italiano perché sta reagendo in maniera così forte, diciamo, esprimendo solidarietà, ma non solo, percependo che c'è qualcosa che non è tanto convincente. E i primi sono stati i giudici, tutti quelli che si occupano di giurisprudenza, avvocati, dicono c'è qualche anomalia. C'è da subito, sì, è giusto aspettare le motivazioni, ma da subito possiamo dire che questa è una sentenza dove sembra che il giudice ha un accanimento contro il condannato. Contro il condannato, perché ovviamente questa è una lotta impari. Che il procuratore di Locri, dopo che mi hanno condannato, no? Che la procura inizia l'iter giudiziario, il procuratore perché interferisce e di dire anche sul piano mediatico? Io ho capito perché, e questo mi ha fatto pensare che questa per me è la difesa più grande e anche la solidarietà più grande. Fare luce su tutto per me è la solidarietà più grande, avere questa speranza. Perché sento l'esigenza di dire l'ex sindaco mandava le persone a San Ferdinando? Io, ma a parte che è una falsità, e che quando c'è stata la manifestazione del 6 ottobre del 2018, in testa al corteo chi c'era? C'erano tutti i rifugiati con i quali in questi anni ho vissuto, diciamo, un rapporto, anche sperando in un riscatto, come devo dire, in un rispetto dei loro diritti umani. Io non ho fatto altro. È inutile che si fa, diciamo, il procuratore si agita così. Perché invece sente questa esigenza? Perché vuole, capisce che l'opinione pubblica magari non è contenta, e allora cerca di controbilanciare cercando di farmi un giudizio mediatico dall'alto del suo potere e poi ovviamente innescando una condivisione mediatica da parte del sistema di informazione della destra, perché la destra ha un'idea sull'immigrazione che tutti conosciamo, securitaria, alla fine sembra razzismo, e una idea un po' disumana anche del rispetto della dignità delle persone. Punire, no? Infatti, a questo diciamo voglio aggiungere che nessuno crede, perché per una cosa banale, semplicemente non è vero. Perché ha bisogno di dire falsità? Punto interrogativo. Ancora ce lo devo spiegare. Io ho capito anche, infatti il 7 novembre, 6 e 7 novembre, stasera a Perù, ad Assisi, sul palco, Alex Zanotelli, un missionario comboniano, e i comboniani hanno deciso di fare una grande manifestazione a Riace, proprio per questo, per dire a me, io mi possono dare 2 anni in più di galera, non è questo quello che più mi mette paura. Oramai anche dicono questa sentenza abnorme, ma questo è un processo che manco ci doveva essere, è stata tutta una cosa, un marchingegno fatto per distogliere l'opinione pubblica dai veri problemi dell'immigrazione, no? Infatti Mimmo, quello che... E allora io dico che non mi possono anche condannare nell'anima facendo in modo che anche tutta una storia nata per una casualità, e come devo dire che io sono stato in prima linea legandola anche ad un ideale politico, perché il nostro ideale, la nostra mission politica è molto legata al riscatto e al rispetto dei diritti umani degli ultimi, di quelli che, questo che ci fa muovere per avere questo ideale politico essenzialmente, se no che cos'altro è? Assolutamente, infatti quello di cui discutevamo prima, insomma, prima della trasmissione, prima di chiamarti, è proprio questo. Ci è sembrato che quello che volessero farti pagare è il fatto proprio che tu hai generato e sostenuto un nuovo modello. Hai provato a cambiare le cose. Esatto, cioè c'è stato un cambio radicale del paradigma dell'accoglienza. E soprattutto rompendo quell'aspetto di indifferenza che c'è. Tu entri nell'anima di quello che, come lo chiamano, il modello di Riace, perché ha ribaltato il paradigma. È un paese proprio in un'area tra le più difficili della Calabria, della Locride, un'area fragile dove è dominata dalle mafie, ha dimostrato che è possibile una idea di valorizzazione dell'accoglienza e di poter dire che non, anche nel linguaggio clandestini, stranieri, no, noi a Riace sono stati preziosi cittadini che non solo hanno ottenuto speranza, ma anche portato speranza loro, perché Riace è un paese abbandonato come tanti del sud italiano, dominati da mafia e da omertà, e con i rifugiati si è costruito una pagina di convivenza della multiculturalità. È stata una cosa fantastica ed è un'indicazione, anche poteva essere un'indicazione per tutti i paesi, i borghi abbandonati, le aree fragili dove l'accoglienza può rigenerare i luoghi. Questo abbiamo organizzato. Questo è un esempio probabilmente che non deve passare, deve passare la logica politica. Ecco perché è una quadratura questa storia politica. Ti aggiungo un'altra cosa fondamentale, perché sostanzialmente è dentro, perché tutte queste parole sembrerebbero fare parte di un'analisi sociologica, di un valore politico, no? Certo. Però al sottoscritto di che cosa lo accusano? Quando il giudice che mi ha condannato gli dice al colonnello della Guardia di Finanza che ha avuto nelle mani tutta la fase investigativa, di intercettazioni, di controllo, di documenti per più di 2 anni, e gli domanda: ma Lucano, com'è la sua situazione, diciamo, patrimoniale? Dice: no, lui non era motivato dai soldi. Poi gliela rifà la domanda, e come se vuole, come non è contento, non lo so. No, e lui dice 2 volte no, perché io queste cose le ho lette dalle trascrizioni degli atti del processo, quindi sono verbali che rimangono là. Allora gli dice: no, lui per i soldi non gli interessava. E dice: però allora qual era la sua motivazione politica? Addirittura hanno costruito tutto diciamo, l'architettura dell'associazione delinquere sulla base di una complicità politica. Attenzione, è un caso questo che io ve lo sto dicendo in modo che ognuno deve sapere queste cose. Perché senza associazione a delinquere non avrebbero poi potuto fare altri reati, e poi addirittura hanno fatto la somma algebrica quasi che i giuristi sono rimasti scandalizzati. Ma come? Si fa sul reato, poi c'è l'articolo 81, si sottrae la pena, soprattutto a persone incensurate e animate come me da una finalità sicuramente etica. Che cosa ho fatto nella vita io? Ma il giudice non la può stravolgere la mia esistenza. Io non mi sono interessato per i soldi, e la realtà lo dicono loro stessi. E allora per i rifiuti mi hanno condannato, per la cassa identità. Un giorno mi potete chiamare che vi racconto una cosa che secondo me è gravissima sulla cassa identità, come c'è la volontà di rispettare i poteri forti, di rispettare i poteri forti che guarda caso hanno uno sfondo nero, un colore politico, e sapete che cosa significa il colore? Voi vi chiamate Radio Onda Rossa, e che cos'è il colore politico sullo sfondo nero? Sono i fascismi, sono le idee, questo purtroppo. È veramente, veramente bello quello che ci dici, ma altrettanto duro da assorbire, perché effettivamente, anche se per noi diciamo parli un linguaggio che è quello di tutti i giorni, perché come sai appunto da questa radio quotidianamente si lotta e si diffonde la battaglia, insomma, del popolo migrante e di chi lo sostiene. Ma insomma, noi volevamo farti un'altra domanda, un po' perché tu devi sapere che questo è un programma, diciamo, di satira, di approfondimento. Ci proviamo, diciamo. Esatto, di approfondimento politico in chiave satirica, diciamo così. Noi volevamo farti una domanda un po' pruriginosa, perché sì. Effettivamente io credo che non molti ti abbiano posto questa domanda. Tu hai subito una condanna di 13 anni, sei stato eletto sindaco e hai implementato e creato un nuovo modello di sviluppo dell'immigrazione e dell'accoglienza dell'immigrazione. Alla luce di quello che è successo e di ciò che le istituzioni hanno dimostrato nei tuoi confronti, quindi un astio spietato, tu oggi ti fidi ancora delle istituzioni? Cioè, tu riuscirai ancora ad avere fiducia nelle istituzioni? Come vedi quelle istituzioni stesse, insomma, per spingere appunto alla realizzazione del mondo nuovo, insomma, di cui poi tu, insomma, sei stato anche parte, no? Esatto, perché appunto questo io all'inizio di questo percorso, diciamo, politico, l'ho vissuto come un rischio anche perché io provengo dall'impegno politico, come devo dire, molto molto partecipato negli anni, e di base, dove le istituzioni, lo Stato sullo sfondo sono visti come nemici, e veramente sono alla fine è come se si accorgono che il mio agire ogni giorno, ma rispetto a delle questioni dove la scelta è così palese di stare da una parte o dall'altra, e alla fine è come se si accorgono. Però io stesso, e questo non lo dico oggi perché alla fine, io quando sono diventato sindaco ho pensato: questa volta non la voglio perdere questa occasione, perché ogni volta la sinistra, a livello questo globale anche, quando prendiamo il cosiddetto potere, poi disattendiamo, passiamo dalla parte, come devo dire, formale, burocratica, autoritaria, cose che io ho disintegrato, avevo gli anticorpi molto sviluppati da questo punto di vista, e per me quel rischio non lo volevo correre. Invece volevo dare un contributo a tutti i compagni. Ho pensato: queste le idee di giustizia sociale, di uguaglianza, di umanità, ma come ha detto Vinicio Capossera, sono forme di evangelizzazione, e io sono convinto di questo. Sono convinto che sinistra utopica e valori dell'evangelizzazione sono sullo stesso, guardano lo stesso orizzonte. Bene. E quindi è come se diventa pericoloso per il pensiero. Come mai Salvini si interessa sempre della mia persona, di un piccolo comune, viene a Viace sostenere il nuovo corso politico, che certo, per Viace è stato, secondo me, al centro di due pensieri, capito? Di due pensieri che in questi anni purtroppo il problema è che il cosiddetto centro-sinistra, radio progressista, a un certo punto, io penso, do questa chiave di lettura, cerca di fare di copiare la destra, di copiare la destra, e uno che introduce questo periodo, che introduce questa stagione, è proprio l'ex ministro degli interni Minniti, che tra l'altro è un calabrese, è lui che con un'idea di apparati militari così del partito favorisce questa, e sulla vicenda Riace secondo me gioca un ruolo abbastanza centrale, d'accordo con prefetture, con sai quante cose ci sono, ci sono così losche, ecco, se tu oggi le esperienze che ho, no, queste prefetture, le prefetture, una cosa che ti dico, quando tu mi dici di fare est, di fare, avevo già anche nel linguaggio questa prefettura di dire, rivolgendosi al prefetto, eccellenza. Ma secondo te un compagno può dire questa cosa? Assolutamente, con noi con questo sfondi proprio. Con noi sfondi la porta aperta, noi siamo contro tutti i tipi. Sono Mimmo, le prefetture, chi le ha istituite? Benito Mussolini. Oh, allora, ci trovi veramente d'accordo, infatti le forme di manipolazione del punto di vista sotto dell'opinione pubblica sono tantissime, basta pensare anche a tanti altri, come dici tu, problemi che ci sono, ma anche soprattutto a questo tipo di condanne, cose che noi naturalmente non riconosciamo come radio, quindi il nostro punto di vista è assolutamente vicino al tuo. Basta parlare anche dell'ergastolo stativo, ma come di tanti altri compagni che subiscono, ecco, magari non lo stesso clamore, ma stesse... La violenza della repressione. Esatto. Cosa gli ho fatto io all'ex prefetto di Reggio Calabria, che se non lui ha un'avversione politica, non viene mai a Riace, e ha un ruolo decisivo nel pretendere delle relazioni fatte in un certo modo, sostituisce le persone che non assecondano quelle richieste, alla fine chi lo nomina come capo dipartimento, che è un ruolo più importante al ministero? Lo nomina Salvini, certo. Proprio in un ruolo strategico, libertà civile e immigrazione, che è il tema su cui si fonda, diciamo, l'ideologia della destra. Questo è, sì, non solo di Salvini, ma anche di Meloni. Ma io non parlo, non c'ho nessun timore più, parlo libero, non lo vedi che... Noi ti abbiamo chiamato apposta perché, insomma, dai microfoni di Radio Onda Rossa puoi e devi andare a ruota libera, ed è giusto anche che tu ti sfoghi un po', assolutamente, perché porca miseria, credo tu ne vorrei abbia anche bisogno, insomma. Cioè, vorrei vedere questo aiuto che vi chiedo, questa collaborazione e questa manifestazione, attenzione, che viene da un'idea dei Comboniani. Secondo me, da quella chiesa missionaria che sull'immigrazione ha la stessa idea nostra, tale e quale. Alex Zanotelli è, come devo dire, la testimonianza più eclatante, una vita spesa nelle missioni africane, e lui adesso a Napoli per i problemi, diciamo, del disagio sociale che si vive in quella realtà dove lui vive. E la vita, che sono i fatti delle assolutamente sue... però ecco, io non voglio assolutamente contraddirti, però tu stesso e il modello Riace sono la dimostrazione che non sempre è ad appannaggio della Chiesa Cattolica. Questa è ragione. E quindi insomma, anche la spiritualità, anzi anche, potrebbe anche insegnare, non è una prerogativa solo di loro. No, assolutamente no, sarebbe sciocco pensarlo, e assolutamente ci trovi d'accordo con te sotto questo punto di vista. Però io penso un'altra cosa, che è l'esperienza di questi anni, che anche tra compagni, tra il mondo della sinistra, non è questo quello che è importante, diciamo. Noi dobbiamo creare il più possibile un'idea, diciamo, di molto partecipativa, e che dove tutti, io penso sempre, l'ideale della sinistra è un ideale anche di libertà, non c'è nessuno una priorità rispetto, più siamo e meglio è, più siamo e così possiamo No, certo. siamo assolutamente d'accordo, ma noi infatti spesso discutiamo sul fatto che siamo pochi, ma sai, noi ma però un buon motto, l'unione fa la forza, insomma. Noi siamo un po', diciamo, lo zocco duro che si deve anche porre alcune domande quando appunto dà spazio alla manifestazione, quindi è anche per quello che già, come diceva, facevo quell'appunto, assolutamente è importante essere tantissime in piazza, sempre e più possibile, sempre, vabbè, insomma. Mimmo, guarda, noi ti liberiamo da questa gabbia che ti abbiamo messo. Vi ringrazio molto. È stato un piacere per noi, Mimmo. Spero che ci potremo anche per me. Ma ormai abbiamo il tuo numero, Mimmo, quindi insomma, quando volete. Se sei d'accordo, esatto. Prima di questa manifestazione ci possiamo sentire. Vi invitiamo a Riace. Quando c'è questa manifestazione? Il 7 novembre. 7 novembre, perfetto. Okay. L'aggiungiamo assolutamente in agenda. Va bene. Esatto. Un'ultima considerazione volevo fare, questa concedetemela. Vai. Mimmo, un sindaco comunista in Calabria, cosa ti aspettavi che sarebbe successo? esatto. Oh no, vabbè, comunque. Buon proseguimento, ma anche nella nostra terra, sai quanti compagni, ma certo. Che non lo so, lo so bene, spingono, non deve trarre in inganno, perché c'è tanta, come devo dire, voglia di partecipare, di non farsi mai vincere dall'assegnazione e di sempre di continuare al di là di quello che è lo scenario, che è squallido, però non ci tiriamo indietro. Adelante, va bene, Mimmo, ti salutiamo. Grazie. Buon rientro. Grazie della speranza. Grazie, un abbraccio. Grazie. Ciao. Ok, raga, un attimo, mi si deve un attimo fermare il cuore. Sì, veramente. Veramente. Una canzone. Grande. Un attimo, riassettiamo, convogliamo le emozioni. No, dai, professional thing. Abbiamo sentito il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, insomma, che ringraziamo ancora tantissimo e ringraziamo i compagni che hanno concorso al raggiungimento del. Grazie di questa, a tutti. Di queste parole. Un sacco di parole. Forti. Toste, dure, e poi comunque poi invece un cuore sceglievole. È bello sentirlo. Ragazzi, guardate, non è per qualcosa, però io nato e cresciuto in un paese, queste cose me le sento, questo modo di vivere, di sentire la vita così vero, sincero, diretto, me lo sento addosso. Comunque, mettevamo un pezzo, penso che sarebbe l'ora di mettere un pezzo, secondo me. Sì, dai, così noi riassettiamo le emozioni, dai. Va sì, bene, sì. Allora lo dedichiamo a Mimmo Lucano alla sua lotta, esatto. Che è anche la nostra. Tu questo schiere in poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Quien ha puesto al huracán, jamás ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra vencedores seremos, porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante. Vencedores seremos, porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran. Sempre 87.9, sempre Onda Rossa. Sì, sì, sì, il podcast ve lo facciamo trovare sia della puntata, non che non vi preoccupate. E allora, emozionati come direi dei fanciulli, esatto, dopo aver comunque parlato con Mimmo Lucano, in contrapposizione proprio a quelle che erano le notizie che avevamo dato appunto all'inizio, cioè un po' scemenze, un po' assurde. E era proprio per dire che in quella fascia di tempo in cui c'eravamo stati, c'è l'estate, succedeva nel frattempo che comunque uomini e esseri umani continuavano il loro veicolare per il mondo, e questa cosa come sempre repressa dalla destra. Abbiamo sentito Mimmo appunto che viene colpito per criminalizzare un modello, no? Sì, cioè, insomma, sì, sì, è anche bello insomma sentire con quanta leggerezza risponde anche un po' alla critica, alla provocazione che gli fa. Sì, esatto, nel senso lui proprio è tranquillo, va dritto per la sua strada, cioè la sua. Ragazzi, la, mi sono collato pure di fare la domanda scomoda. Sì, esatto, esatto. Voglio vedere, È dai, proprio tutto un pezzo. Sì, non si rende molto scomposto, esatto. No, ragazzi, io scusatemi, ma non ho potuto fare a meno, perché comunque quando si parla di queste cose stiamo comunque parlando di rapporti con le istituzioni e comunque di avere un confronto con quello che è la burocrazia, eccetera. Quindi ecco, davanti a sentenze del genere c'è chi si meraviglia e chi si meraviglia meno. Probabilmente è sorprendente l'entità della condanna. Non ci sorprende la condanna in sé, ecco, no, esatto, e non ci sorprende infatti neanche quello che è successo in Valsusa settimana scorsa, qualche giorno fa, anzi sì. Ossia stiamo parlando appunto della richiesta di estradizione da parte del governo francese di un compagno che faceva, come dire, il suo resistenza. La sua resistenza, ma più che resistenza, diciamo la sua opera di non lasciar morire persone che per forza, esatto, di casa devono fare devono oltrepassare il confine, perché si fa di questo, il parallelo di questo stiamo parlando, e si fa il parallelo, esatto, soprattutto con la forza che si ha e si sta mettendo in campo per reprimere quelli che sono i gesti, esatto, di umanità, sostanzialmente quasi come se poi verrà detto fra un pochino, lo ascolteremo, questa parola che a me mi ha colpito, insomma, quasi, no, che venga proprio criminalizzato il gesto di umanità, cioè laddove l'indifferenza comunque venga abbattuta, perché in qualsiasi modo, ma poi per quale motivo, esatto, comunque no, cioè comunque la repressione, insomma, di in qualsiasi modo uno prova a entrare in contatto con quel tipo di roba lì che possiamo chiamare come forma di governo da parte dello Stato, insomma, in maniera propositiva e positiva, in comunque in qualche modo viene terribilmente represso, esatto, in Val di Susa non è la prima volta, adesso stiamo parlando appunto di Emilio, questo compagno che dava, esatto, una, tra virgolette, assistenza a chi sofferente arrivava a piedi cercando di scavalcare appunto il confine con la Francia, vicino al cantiere, per il quale insomma l'accusa è di violenza aggravata e di oltraggio a pubblico ufficiale, dopo che insomma, come sentiremo dal contributo che vi stiamo per far sentire, che ha registrato una compagna della redazione, lo avete già sicuramente ascoltato insomma, qualche giorno fa, ma ci è sembrato opportuno riproporlo, sì, insomma, diciamo, proprio perché è legato al discorso che facciamo, lui, sì. Però insomma come ricorda anche come ricorda anche Emilio all'interno appunto di questa corrispondenza che vi stiamo per far sentire, non è una novità insomma che in Val di Susa ci sia questa grande propensione alla violenza. Ricordiamo una compagna poco tempo fa con un fumogeno sparato in faccia, non so, lacrimogeno da pochi metri, altezza uomo, sorveglianze speciali per un'altra compagna, insomma ce ne sono tante di... diciamo che nel mezzo di questa grande lotta purtroppo ci viene da dire che anche avanti. Qui non è niente di nuovo, però insomma ci teniamo sempre comunque a ricordarle queste cose e a metterle vicino anche ad altre, quindi... E poi c'è comunque, no, l'elemento che si mescola, cioè comunque ci sono compagni che stanno lottando e portando avanti la battaglia contro lo stupro della montagna in Val di Susa, e al tempo stesso c'è il veicolare, appunto, come dicevamo anche con Mimo, umano, c'è comunque la possibilità che sia di dare una mano. Comunque noi stiamo dicendo un sacco di roba, ma voi tutte quante queste notizie le potete trovare su www.ondarossa.info, che è il sito della radio. Ci sono praticamente tutti quanti i podcast di tutte quante le corrispondenze che facciamo durante la settimana, e quindi ecco, come dicevamo, vi facciamo sentire questa intervista a un altro compagno che sempre a modo suo cerca di fare, diciamo, la cosa giusta per quello che riguarda quello che calpesta, ossia i passi che fa nella sua vita, e questa è l'interazione che ha con insomma chi dovrebbe governarci. 87.9, torniamo in diretta, abbiamo in collegamento il compagno Emilio, che salutiamo. Ciao, buongiorno. Ciao Emilio, buongiorno. La volevamo innanzitutto esprimerti solidarietà e vicinanza a tutta Radio Onda Rossa, e poi insomma con te volevamo un secondo se ti andava a commentare la decisione della Corte d'Appello di Torino di concedere questa estradizione alla Francia. Allora, se ti va di fare, insomma, sul sito di Onda Rossa trovate anche un riassunto delle vicende di Emilio, però se ti va di riassumere due parole e commentiamo insieme, sì, certo, insomma, quello che è successo. Sì, diciamo, sulla mia situazione sono abbastanza costernato, ma però di quello che sono ferito in particolar modo è la sentenza Mimmo Lucano, perché cioè io dibatterò la violenza in un tribunale francese dove, se ci sarà la verità, se ci sarà la situazione nel suo contesto, io la violenza la subivo e alla fine, solo perché ho la colpa di non essere una persona inerme, mi sono difeso dalla violenza della celere francese, e adesso dovrò fare un processo dove loro chiedono l'estradizione. Vabbè, ma questo è il gioco delle parti, io mi prendo le mie responsabilità, ma mi piacerebbe che si prendessero anche loro la loro responsabilità. Questo sarà poi in un processo, però vedere che adesso si sta condannando così una persona come Mimmo Lucano, che sicuramente è un nostro solidale no border, no confine, no barriere, e vedere che gli hanno dato questa condanna, a me piange il cuore oggi essere agli arresti domiciliari, perché innanzitutto oggi sarei su a Clavier perché c'è un'iniziativa no border, un passamontagna. Per questo dico, io non mi sento di pronunciarmi sulla sentenza, sull'estradizione, perché questo è il gioco delle parti, c'è un sistema che cerca di reprimere il dissenso, di reprimere con la maniera che sanno fare, con le loro Robocop, tenuta antisommossa, e vorrebbero farmi passare a me per un violento solo perché io rispetto alla storia di Stefano Cucchi, ma io non sono Stefano Cucchi, perché sono 90 kg, non 60, e non sono inerme, per cui sono stato attaccato in una maniera ignobile dalla celere in un'iniziativa no border, e adesso vedere che c'è questo MAE, il MAE, un mandato di, diciamo, arresto europeo. Ma a parte che io non le conosco ste robe, io non so che cos'è legale, cos'è illegale, io so cos'è la cosa giusta e ho sempre fatto questo nella mia vita. Adesso mi sto rendendo conto che la legalità l'hanno decisa certi uomini, perché c'è anche gente che dovrebbe vergognarsi del loro percorso di vita. Sicuramente non siamo noi che diamo gesti di umanità e stiamo aiutando i migranti a attraversare la montagna, che per loro è il momento più difficile, perché i deserti li sanno attraversare e ne hanno attraversato uno, anche due. Attraversano un Mediterraneo e lo stanno lastricando di cadaveri, di morti. Però il momento più difficile è la montagna, che non sanno cos'è l'ipotermia. E allora il nostro essere no border, il mio reato è conseguenziale all'aiuto umanitario. Se vogliono colpire così forte chi si mette in gioco per dare quello che sarebbe dovrebbe essere la normalità, un aiuto a degli esseri umani in un momento difficilissimo della loro vita, allora che lo mettano in Costituzione, che ci sarà il reato di gesti di umanità, capisci? Sì, sì, è perfettamente. Allora, diciamo che sicuramente c'è in Italia una stretta ancora più forte, insomma, c'è sempre stata la repressione nei confronti di chi lotta e soprattutto sulla questione dei aiuta, della solidarietà, insomma la repressione si è sempre fatta sentire. Sicuramente in questo momento la fortezza Europa si sta attrezzando ancora di più a chiudersi dentro, in un momento in cui secondo me tra cioè, le migrazioni avverranno sempre più forti, perché tra desertificazioni, povertà e via dicendo, quindi ci si sta chiudendo sempre di più nella fortezza Europa. Questa questione tra creare un modello diverso, insomma, Mimmo Lucano, io leggevo, io neanche lo sapevo, ha attraversato anche il movimento, insomma, la Val di Susa, questo io per esempio non lo sapevo questa cosa, quindi diciamo che insomma un modello diverso che ha provato a fare, poi insomma gli errori amministrativamente ci possono sempre stare, però diciamo un immaginario di anche ripopolamento di chi, cioè di far vivere un territorio che molte volte è abbandonato e invece non si capisce perché dovrebbe essere abbandonato, o le frontiere e via dicendo, c'è ovviamente, ma anche chi, sa, c'è stata una sentenza anche a Roma su chi ospita, no? Dei propri connazionali che in qualche maniera attraversano le nostre case per andare insomma dove vogliono. Ecco, c'è un attacco molto forte. Io ti dico questo, noi qui in montagna, visto che è la montagna che stiamo proteggendo da uno stupro, no? La montagna Notav. Ma quando io mi trovo un migrante, una famiglia, che ti chiedono solo come indirizzarsi i nostri passi montani, noi qui ci siamo interfacciati con quel mondo in una maniera. Avevamo due alternative: o li aiuti o ti giri dall'altra parte. E certo, cioè, perché è un luogo di frontiera, per il resto è filosofia. Sai perché succede questo e dove andiamo a finire? Cioè noi siamo stati costretti, visto che facilmente abbiamo un cuore generoso, un cuore che è adatto alla resistenza, perché sono i passi montani della resistenza. E ci siamo posti, non avevamo grandi alternative, aiutando a girarsi dall'altra parte. Penso che almeno io in particolar modo non sarei riuscito ad andare a coricarmi a Calduccio, abbracciato a mia moglie a Calduccio, sapendo che c'è gente che potrebbe morire in quel passo montano. E ci siamo attivati, questo è il nostro essere illegali, no? Il andare a dimostrare il no border ed essere attaccati con io mi auguro che ci sia un video di quella situazione, però questo si vedrà. Però il sostegno che noi diamo a questa parte di umanità rende secondo me onore a questo paese, perché io non voglio pensare che l'Italia sia un paese razzista, che sia un paese dove non abbiamo cura degli ultimi, dei disastrati, dei... per cui io sono attaccato anche per queste robe qui. Chiaro, loro vorrebbero fare apparire solo, guardano il dito, non la luna, cioè la violenza, perché c'è la celere che ti attacca, e dove io mi ritrovo con dei celerini che mi tirano lacrimogene come si tira un sasso in faccia, sono solo seduto a guardarmi la valle, non contento perché ho schiviato la granata che me l'ha tirata in faccia come una pietra, mi ha attaccato col manganello come un pazzo, allorché io da dove ero seduto ho preso qualcosa che doveva essere deterrente perché non mi attaccasse, ho preso un pezzo di legno da dove ero seduto perché era già un po' mal agganciato, e sono rimasto così, ho detto adesso tirerà dritto, invece mi ha puntato e c'è stato lo scontro, perché io ho schivato una prima sua manganellata e la seconda non sapevo se la schivavo, e le ho dato quello che si era cercato e si era anche meritato, capisci? Certo. Però a me mi sta anche bene, farò un processo per questo, però che mi facciano apparire come un bandito, questo mi disturba molto, capisci Cristina? Perfettamente. Bene. Senti, allora, ovviamente insomma rinnovo la solidarietà, se continueremo insomma la radio, i microfoni sono aperti quando vuoi, continueremo a capire anche questa questione dell'estradizione, perché come cioè, ci preoccupa anche il fatto che potrebbe continuare un spalleggiamento tra Italia e Francia su trasferimenti di processi e di persone, insomma ricordiamo che c'è anche Vincenzo in Francia, questa tua estradizione potrebbe aprire anche le porte a una sua estradizione verso l'Italia, insomma gli pesano delle condanne per devastazione e saccheggio per i fatti di Genova, dove già allora insomma nel 2001 si parlava di frontiere, si parlava di no border e si parlava di solidarietà certo. Globale invece che no global e altro che no global per cui Emilio noi ti ringraziamo tantissimo e sicuramente insomma la tua voce è una voce che racchiude un po' una lotta che riguarda tutta Italia, da appunto da sud a nord, da Lampedusa alla Val di Susa, sulla questione della solidarietà, dell'apertura delle frontiere. Ricordiamo che in questo momento è in corso un corteo a Clavier, che se riusciamo insomma cercheremo anche di collegarci appunto sempre sulla questione dell'apertura delle frontiere fra l'Italia e la Francia, soprattutto in questo momento prima dell'inverno, dove poi sarà sempre più difficile per le persone che migrano attraversare le montagne. Perché di questo stiamo a parlare. Non so se hai altro da aggiungere, se no ci aggiorniamo. Di questo stiamo a parlare. Esatto, esatto. Noi rientriamo in voce dalle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre io te l'avevo detto. Ringraziamo alla compagna che ha realizzato la corrispondenza che abbiamo. Perché veramente grande, queste sono cose belle che ci piace sentire. E ci piaceva fare insomma questo rapporto tra l'intervista che abbiamo fatto. No, più che altro diciamo che come ci chiacchieravamo mentre ascoltavamo di nuovo l'intervento. Era proprio il fatto insomma che dicevamo bisogna sentire proprio le voci di chi poi ci prova opponendosi proprio con il proprio corpo a determinate cose e capire poi come si muove, è quello che si riceve, no? Esatto, esatto. Cioè, perché qua stiamo a parlare dell'ennesimo compagno che viene bastonato e poi condannato a oltraggio a pubblico ufficiale dopo. Esatto, cioè, ed è una riflessione che va indubbiamente fatta. Sul tema di migrazione, proprio dei flussi, di chi gestisce i flussi e come vengono gestiti. Come dicevo prima, la radio si è occupata anche di chi scavalca dall'altra parte, verso la Bosnia. Sì. Nel senso, non è la prima volta che proviamo a parlare di questa roba qua, ma il problema appunto è che si dà molta risonanza a determinate cose, ad altre invece no, ma naturalmente le cose che sono messe sulla bocca di tutti tramite insomma quello che possiamo chiamare il meccanismo che poi vedremo anche tra un po' che fa diventare, e che ha anche delle possibilità di insediamento da parte di persone danarose. Quindi quello che voglio dire è: quanto ci vuole per fare in modo che si parli di una cosa piuttosto per un'altra? Un tempo fa avevamo fatto una puntata su questa cosa qua, e invece adesso, così, buttando l'occhio su un paio di cose della vicenda che tratteremo tra poco, ossia il caso Morisi. No, se hai giocato notizia, così. No, perché così. No, perché ve la prendo dalla larga, perché secondo me. Ma quella larga l'hai detto subito. Scusa, il caso Morisi, qual è la ormai che ve allarga? No, il modo in cui voglio prendere l'argomento. Ok. Ok. Prima abbiamo parlato di 500.000 euro. No, perché è interessante invece come cosa. È certo che è interessante. La sinistra riparta da Morisi, lo dicevamo prima. No, la sinistra riparta dai festini di Morisi. Oh. Era quella la cosa giusta. Da Morisi no. I festini di Morisi sono il manifesto della nuova sinistra moderna, liberale, progressista, sinceramente democratica. Solo che lui non lo sa, dice. Esatto, non lo sa, perché lo sa. Sono festini dove ci si diverte, dove non si bada e non si dà nessun peso alla sessualità altrui, anzi si incentiva la diversità quanto più possibile. L'antiproibizionismo la fa da padrona. Caro Morisi, insomma, sei un compagno e non lo sapevi. Detto ciò, faccia una bestia pure a noi, perché probabilmente, esatto, perché comunque la domanda resta, cioè, come mai hai fatto il cagazzi fino adesso? Vabbè, certo, vabbè. Quella è la più grande domanda, che però insomma mi sembra abbastanza, ma vabbè, era lavoro, dai, il lavoro che lascia lavoro, il tempo che trova, no, più che altro il fatto sono appunto i soldi e il potere di quello che ci gira intorno. Diciamo che in 3 anni su per giù di buon servizio per la Lega, la società di Milita ha guadagnato un milione e mezzo, tanto che ha fatto diventare il capitano, il capitone, capitone. E quindi, se ci facciamo un attimo così due calcoli, 500.000 euro l'anno, che sarebbero poi quelli che dicevamo prima ci voleva sottoscrivere il radioascoltatore tramite quel furtarello. Ma quanto ci vuole arrivare a 49 milioni così? Ah, vabbè, no, esatto, quella è tutta quanta un'altra storia. Dai, è tutta un'altra storia, perché no, sempre lui. Quindi, comunque, qual è il problema? Caro Morisi, 500.000 euro, così poco soprattutto costa disperdere fake news a manetta sul web e influenzare appunto un popolo, l'opinione pubblica di un popolo, e far gradire il capitone. Questo sì, costa. Evidentemente quello su cui siamo interrogati è anche questo, cioè il grande dilemma morale. Perché abbiamo capito che Morisi, cioè, esatto, Morisi, perché nel senso abbiamo capito che costa pochissimo sfondare di botte, o comunque sia diciamo rovinare la vita a qualcuno che prova ad interagire in maniera propositiva e positiva con le istituzioni, ti crepano in qualsiasi modo, e sì, proprio o giudiziariamente oppure proprio okay. E invece poi no. Sì, invece poi sì, cioè abbiamo visto che succede. Cioè, nel senso, e poi invece diventi, diciamo, il capitano, appunto, perché vieni semplicemente appoggiato da una miriade di cazzate in però giro, insomma, per il mondo. Volevamo, è noi, malissimo. Noi mo tu stai a mettere tutto ceci e fagioli, stai mischiando giustamente. No, nel senso è un paragone, come abbiamo fatto il paragone prima tra quelle altre due cose che ci sembravano strane, ossia quello che si rubava il Gratta e Vinci e nessuno che e faceva scalpore, e nessuno invece che diceva niente sull'aumento delle bollette, no? Era un altro paragone così, che è una delle tante domande che noi ci poniamo, e poi magari riusciamo ogni tanto a pia qualche idea, l'avevo detto, no? Sì, infatti. In realtà noi ci eravamo prefissi l'obiettivo di prendere in giro Morisi. Questo è perché siamo delle bruttissime. No, non è vero, non volevamo prendere in giro Morisi. Volevamo prendere in giro Morisi, però in realtà poi ci siamo un po' sentiti sporchi nel prendere in giro Morisi, perché effettivamente c'è poco da prendere in giro. Cioè, immaginate il dilemma morale, immaginate il dramma di quest'uomo. messo davanti a questa condizione di essere il social media manager di Salvini, e invece viversi una vita privata del tutto contrapposta alla bestia che lui aveva generato. Ecco, mo come ci giriamo dentro, perché sembra fatta poi, in realtà sembra uno scherzo, a noi che ce ne, cioè sembra uno scherzo, no? Nel senso, cioè, ce l'ha tutte. Però cioè, la lotta alla droga, la lotta omofoba e l'immigrazione, tutte ce l'ha tutte. Detto, bisogna ripartire dai festini di Morisi, non è un caso che l'abbiamo detto, noi siamo delle bestie provocatrici e siamo fatti apposta per prenderci i fulmini, come quindi dicevamo. Ci vogliamo far creare, insomma, diciamo, questo personaggio, però, da, però Morisi, se ci stai ascoltando, cambia radio, cioè nel senso cambia frequenza, cambia canale. Ma tranquillo che non sta a sentire. Però in ogni caso stiamo scherzando assolutamente, non si riparta da nessuna parte, anche perché noi non, come dire, non sponsorizziamo l'uso di nessuna sostanza che bypassi il consenso in ambito sessuale, questo deve essere molto chiaro, perché pare che nei festini di Morisi girava questa sostanza che si chiama GHB, se non sbaglio, insomma, questa famosa droga dello stupro, che è una sostanza estremamente pericolosa, che appunto droga dello stupro viene chiamata proprio così, perché serve a diciamo a bypassare proprio il consenso da parte della vittima dell'assunzione di questa sostanza, e di conseguenza si mettono in pratica delle violenze sessuali anche grazie a questa sostanza, quindi a causa di questa sostanza. Quindi ecco, noi non, a parte gli scherzi, non incentiviamo nessun tipo di uso di questo tipo di sostanze, anzi condanniamo quanto più possibile le violenze di ogni natura e di genere sessuale di ogni tipo, perché insomma vi ricordiamo qualora fosse necessario che il consenso è il il limite, dopo il primo no diventa stupro, cari compagni e care compagne, quindi ricordiamocelo al di là degli scherzi. Quindi caro Morisi, sei un cretino, potevi proprio evitare di fare la bestia, soprattutto perché invece potresti venire con noi a combattere contro il proibizionismo, e quindi a spingere per l'antiproibizionismo, per i diritti civili e quindi per l'unione delle coppie omosessuali, per i diritti della comunità LGBTQI+, e di tutto quello che è il mondo dei diritti civili che tu tanto hai deturpato e vituperato. Quindi che dire, c'è poco da ridere su sta cosa. Sì, no, ci volevamo ridere, ma c'è niente da ridere, è una storia triste. Ha capito la bestia? Ma sei bestiaccio. No, vabbè, diciamo che fa un po', c'è l'unica cosa che fa ridere, ma naturalmente come tante risate che ci facciamo, avete, l'avevo detto, sono risate amare, no? Molto amare, queste erano proprio amare. No, fa ridere nel senso che comunque il portavoce che appunto è proprio quello che viene pagato fior fior dei soldi per spargere e creare consenso nel suo mondo per questo partito, poi alla fine effettivamente è proprio, no, è ridicolo, viene incriminato per tutto quanto il, cioè se ci avessero scritto un film, ma anche, sarebbe stato probabilmente banale. C'è anche un discorso di prostituzione per cui la Lega insomma è sempre stata molto ma che scherzi, no? Prostituzione omosessuale con gli immigrati rumeni, cioè è proprio a vederla così, cioè se volessimo risultare delle persone orribili sarebbe proprio a dirgli sarebbe da mettergli la risata dei Simpson, cioè proprio capito, proprio così. Poi noi non siamo delle persone orribili, assolutamente non lo siamo, e quindi non abbiamo scaricato la risata di Barry, ma ne abbiamo scaricata un'altra risata. Grandissimo, come va? Tutto bene, nel senso bene. No? Bene, molto. I soldi che hai accumulato passa da quest'altra parte e dagli a Onda Rossa, che c'ha sempre bisogno di sottoscrizioni. No, però se proprio non sai. Ma però andiamo avanti velocemente, rapidamente, perché ci avviciniamo alle 8 in maniera, sì, infatti, devastante. È un'altra cosa che ci ha colpito di quest'estate, di questa torrida estate, ma soprattutto in questi giorni in cui si parla di riaperture percentuali. Esatto, cioè, attenzione, sono state delle cose. A parte che c'è la riapertura dei musei, coffee shop. Niente coffee shop, Madonna, oh, ma sempre un'arte, fai, pensi, vabbè, sempre. no, dei musei, degli stadi, esatto, del, sì, delle discoteche. Questo decreto riaperture, come che si chiama? Arte, cosa che, eccetera. Va bene, che dire? Vogliamo che dire? Dare delle percentuali? Vogliamo dare delle percentuali, siamo intorno al quasi tutto al 100%, tranne appunto le discoteche che stanno al 50, qualcosa al 75, ma è interessante sempre che comunque bisogna, discoteche? Cioè, nel senso, per quanto è approssimativa il livello di informazione, bisogna aggiungerci per forza di caso delle parole che sono tipo secondo il colore della regione, perché non è che dici sta in bianca, vabbè, sta, ma tu sei catastrofista, cioè, ok, no, passiamo dai. Allora, intanto vorremmo rassicurare le compagne e i compagni che no, non stiamo facendo finta che ieri non è successo niente, non siamo stupidi, non siamo, esatto, ciechi. Tutte quante le riaperture sono solamente con il Green Pass, argomento che abbiamo visto a quanto pare è molto scomodo e come direbbe Migrazzi, divisivo, è un argomento molto divisivo. Sì, un argomento veramente divisivo. Infatti quest'estate, in merito a questa questione delle riaperture, delle sedicenti riaperture, no? C'è stato un importante evento che ci ha colpito particolarmente. Sì, esatto, diciamo, noi in quanto musicisti e amanti della musica, insomma, siamo stati colpiti appunto da dalla faccia da culo, no? Sì, dalla faccia da culo di solamente di uno dei più grandi artisti sulla scena, diciamo, rap italiana, no? Esatto, che esatto. Con un nome abbastanza falso, possiamo dire. Sconosciuto, un nome sconosciuto, Triplo, com'è che si chiamava? DJ Triplo. Una cosa del genere, sì. DJ Triplo, meglio noto come Salmo, se lo vogliamo no, dire. No, scusate ragazzi, no, cioè, non è DJ Triplo. No. No, era DJ 1. No, aspetta. E Triplo. No, l'abbiamo qui in diretta, solamente io te l'avevo detto. Attenzione. Yo DJ 1 e Triplo. Pronto. DJ 1 e Triplo, attenzione, ce l'abbiamo solo noi. Check it out. DJ 1 allora, e Triplo. Io sono 1 e Triplo. Raccontaci la tua storia. Allora, io ho cercato di fare un benefit per la radio, perché io amo molto questa radio. Grazie. E io sono un trapper, a differenza di quell'altro che insomma dice di essere un rapper, ma non lo so, insomma. Infatti. E allora ho deciso di fare un benefit per Radio Onda Rossa. Ah. E sì, e quindi ho diffuso l'invito a tutto il mondo. Ah, così, proprio, cioè... Hai fatto benissimo, è così che si fa, dovete organizzare... Esatto. Però appunto, siccome io non uso i social media... Ho invitato tutto il pubblico a venire tramite fax. Tramite fax? Ah, sì, ho usato il fax. Spettacolo. Ma il fax o il fax? Fax. Parla di fax. Sì, il fax. Infatti, e com'è andata? Dunque, allora, io questo live l'ho deciso di fare sul terrazzino di casa mia. Ah, innovativo, originale. Sì, no, perché insomma... Perché appunto io sono contro la dittatura, c'è cioè questa dittatura che ci imperversa. Sì. Infatti abbiamo sentito, abbiamo letto su quasi tutti quanti i quotidiani e infatti che è una cosa, infatti la dittatura, e tu ti sei opposto a questa esatto, dittatura. Io ho detto venite tutti quanti senza maschera, senza mascherina e senza rispettare nessuna distanza. Tanto a me non me ne frega dittatura. Niente. Giusto, allora, aspetta, contro questa dittatura. Fammi capire, uno è Triplo, DJ uno è Triplo, tu hai organizzato un evento a sostegno della radio invitando la gente a venire senza mascherina, ma esatto, scusa, e senza rispettare la distanza. Ma come? Ma noi facciamo tanto, cioè proviamo a fare no, bisogna protestare contro la dittatura. Ma, e allora, ma adesso è azzerato comunque. Se ballavano comunque era una cosa che si può fare da oggi, ecco, quindi, ballavano diciamo, ecco, insomma, non ho capito bene perché, ma non sono venuti molti spettatori, diciamo così, va, insomma, però il live l'ho fatto. Sei stato boicottato dal sistema. Esatto, la dittatura mi ha boicottato perché non vogliono sentire le voci libere, insomma. Giusto, i media locali hanno registrato qualche cosa, ma la dittatura mediatica mi ha impedito, insomma, di fare questa cosa in grande stile. Non c'era nemmeno Onda Rossa, pensa. Eh no, infatti anche la radio, insomma, infatti... Anche insomma devo dire che hanno preso anche le distanze da questa mia iniziativa, non ho capito il perché, perché insomma io sono contro la dittatura, la dittatura. Noi siamo contro le dittature, tutti i io infatti anch'io sono contro la dittatura. Infatti, e vabbè, sarà per la prossima DJ Urettiplo. Io penso infatti che... sì, però ho previsto un altro evento. Benissimo, però lo faccio in cantina. Noi però con l'occasione che ha funzionato la terrazza. Noi però con l'occasione che hai parlato di evento vorremmo dire che il 16 ottobre effettivamente c'è un evento vero che riguarda la radio, sì. Insomma un evento a sostegno della radio a Asnia, insomma è vero DJ Urettiplo, ci sarà anche DJ Urettiplo. E vabbè, allora verrò a vedere un po' di che si tratta. Ma no, ma vieni con la tua entourage, venite a fare uno spettacolo. Ma sì, sanno cioè, vabbè, uno spettacolo, magari ci inventiamo un altro nome, non lo so. Vabbè, vedremo quello che si può fare per questa radio. Allora ti aspettiamo là, vabbè, ti aspettiamo il 16. Vabbè, ci vediamo il 16 alla SNIA. Perfetto, grande, grazie mille. Noi vogliamo ringraziamo Andrea che è un grande. Noi... io. Andrea 1 e triplo. Dai, Andrea è sicuramente 1 e triplo. Senza dai. Grande, ciao Andrea, grazie, buona serata. Cuore, a presto, ciao. E okay. Comunque noi ridiamo e scherziamo, ma comunque è tardi. Sì, a parte che è tardi, ma qualche settimana fa è stato annullato per forza di causa, diciamo così, non tanto per dovere di cronaca, ma più che altro per giustizia proprio di doverlo dire, il concerto del gruppo Your Room, che insomma, come chi ascolta la radio insomma magari conosce e ha sentito parlare, insomma stiamo parlando di un gruppo turco che diciamo ha subito diversi attacchi, per così dire, da parte del governo, con diciamo membri del gruppo spariti, altri trattenuti, insomma stiamo parlando di un gruppo che non è solo un gruppo musicale, il gruppo Rum è prima di tutto un collettivo politico, bello, tosto, forte e combattivo, che insomma subisce da tanti anni le angherie proprio del governo turco, insomma appunto come diceva Matteo, e quindi ecco sono venuti a suonare in Italia e a quanto pare non hanno suonato, e perlomeno qua a Roma abbiamo insomma così quindi voluto ricordare questa cosa, e ci teniamo soprattutto a inviare solidarietà sia al gruppo, ma come sempre a tutti quanti e tutte quante quelle che non godono della libertà personale. Esatto, e questo è l'augurio che lanciamo tutte le volte insomma da questi microfoni, e sempre quando c'è insomma siamo per chiudere, perché appunto diciamo vogliamo concentrare un po' l'attenzione finale su questi saluti che sono sempre molto importanti, quindi io credo che abbiamo finito, giusto? Sì, abbiamo decisamente finito. Intanto qua squilla il telefono, purtroppo certe volte non riusciamo. Non si capisce. Abbiamo avuto dei piccoli problemi ultimamente con le telefoniche. Ci andiamo a sentire un altro pezzo. Nel frattempo vediamo l'appuntamento, forse la settimana prossima. Da una location segreta. Segreta. E questa era la prima puntata della nuova stagione di Io te l'avevo detto. Questo è importante dirlo e ribadirlo. E di conseguenza vi diamo appunto alla prossima puntata, che non sappiamo se c'è un dubbio, sappiamo se prossima settimana o fra due, insomma ci piace coltivare il dubbio, perché esatto, il dubbio... soprattutto perché siamo in pentola molte idee, dubbio, vedremo un po' come è la matrice del cambiamento, il dubbio è il motore del cambiamento, esatto. No? Quindi a noi ci piace il dubbio, di conseguenza forse ci sentiamo domenica prossima, forse fra due domeniche, probabilmente aspetta. Che sta scendo? Aspetta, squilla il telefono. Pronto? Sto pronto? Sì, pronto, chi è? Pronto, buonasera. Pronto, mica tanto. È Radio Globo? No, un'altra volta. No, raga, già abbiamo detto no. Questa, ci siete mancati, Radio Globo. Sì, siamo Radio Globo, sì, ciao. Ma dobbiamo ricominciare questa questione un'altra volta? Ebbene, sì. Allora, perché per la dittatura non fare più le consegne, quindi. Ma vedi, no, loro stavano pure sentendo. No, ma come fate? Le consegne le facciamo, certo che facciamo le consegne. Come al solito, dai. Che cosa volevi dire? Vorremmo due spring rolls. Due spring rolls, segna già. Segno. Due once. Ok? Quasi, non so, allora, ci sta, quasi, non so. Non lo so, vediamo un po', forse. Forse sono finiti. Verdure. Lo scandisco bene. Was once. Ok, allora was sì. Allora sì. Ho capito, avevo capito male. One once? Due o uno? Quante? Due. Was once? Mai che ce ne casca. Poi, la salsa lui. Mi raccomando, la mancia al ragazzo, per favore, perché ogni volta torna e dice che anzi fate storie sul resto. Sui tempi, non lasciate. Ma perché non siete mai puntuali? No, e siete voi che cercate di fregare addirittura. Ma noi di Radio Globo arriviamo tardi, ma ci vediamo lunghissimo. Però tu devi anche capire, infatti, che prima avere moneta, poi dare cammelli. Capisci? Avete fatto la sottoscrizione alla radio? No, come no? Come no? Però adesso no. Non ci arriva più adesso così direttamente sul 30 per 1000, ma ce le dovete venire a portare a mano, poi noi vi portiamo da mangiare. Esatto, voi. Abbiamo una voglia di conoscervi di persona che guarda... Guarda, veramente da piazza Tisse, esatto, da accogliervi a braccia aperte, esatto. A mani aperte. Da bere, prendete qualcosa? Esatto. Ma ve la dicevo. Cosa? Chi? Da bere una birra grande, grazie. Una, vedi, una. Pure, cioè, capito, se smettono una birra grande. Volta, fredda, no, come l'ultima volta. Pure, fredda, capito, fredda, pure fredda. Le storie. Vabbè, questa cosa comunque prima o poi la lanceremo come forma come di servizio. Sì, assolutamente, di auto. La possiamo organizzare una serata takeaway della radio? Non sarebbe no, male. No, io dico cioè, proprio di no. Per impazzire così, giusto per impazzire. Detto questo, io ringrazierei immensamente Peppe e Nena, che sono incommensurabili e inarrivabili come sempre, meravigliosi. Grazie a voi. Sì, certo. Vabbè, figurati, ma che belli da casa. Un abbraccione enorme. Belli, ciao. Belli. Ragazzi, ciao. Ci sentiamo veramente la settimana prossima. Ringraziamo tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato. Sì, ringraziamo Mimmo Lucano. Ringraziamo Mimmo Lucano e non è una battuta. Assolutamente. Cioè, no. Capito come? È una cosa vera, lo so. È una cosa vera. Sì. È stato bellissimo, un momento bellissimo. Volevamo volabbassi come prima puntata, fa un'oretta veloce, invece come al solito siamo arrivati fino alle 8. Siamo riusciti. Non gliela potevamo fare. Siamo così. È stato un bellissimo momento, un bellissimo rientro. E sì. Allora noi, io te l'avevo detto, vi salutiamo alla prossima puntata. Sì. E ti rilanciamo una possibile sorpresa per domenica prossima, chissà. Quindi stay tuned, come si dice oggi. Vi ricordiamo il 16 allo SNIA. Assolutamente. Per l'evento Protonium a favore Beri, della radio. Tante altre cose, fiche. Ci vediamo sicuramente in piazza domani alla giornata di sciopero. Sciopero generale qui a Roma. Ci vediamo insomma mattinata. Ognuno sa un po' dove. Tutta quanta Italia si manifesta, quindi è importante esserci insomma e fare anche un attimo il punto di quello che succede sotto il punto di vista del lavoro. Adesso che stiamo tra virgolette, per chi si è fermato, ripartendo, per chi non si è mai fermato, insomma, sa bene di quello di cui stiamo parlando, perché insomma è difficile trovare un settore che si sta salvando dal degrado, esatto. No? In questo periodo, come abbiamo detto molto spesso e continuiamo a dire, insomma, la direzione non ci piace, la direzione che stiamo prendendo sotto. Infatti noi andiamo sempre in direzione ostinata e contraria. E con questo noi vi salutiamo, sì. E vi baciamo, vi abbracciamo fortissimo e viva ciao. Io te l'avevo detto, ci vediamo domani in piazza. Ciao.